ricordo un incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura e dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia. Poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come l'orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia. D'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era, cominciano i silenzi della sera. E inventi feste e inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia. Non ho detto gioia, ma noia, noia, noia.